Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Come on everybody, Runtime Radio, ottimisti genericamente mortificati, anche detto OGM, da Simone Pizzi. Buonasera a tutti, con me c'è Simone Cusella. Ciao. Walter Sbano. Oh ragazzi, buonasera, se non siamo mortificati oggi non so più quando lo potremmo essere. No, stasera morti de bestemmie ci fa una pippa Marco Gualdi. Ciao, io mi sento bene. Marco bene. Gualdi, no, aspetta, fa una pippa. No, aspetta, metti bene le virgole, no, perché sennò succede un casino qua. Eh no, perché mi ricollegavo a vecchie storie. Infatti, io non faccio niente per niente, innanzitutto. Infatti, a prescindere, quindi devi sempre considerare che c'è una leggenda metropolitana che dice che uno che ha ricevuto una mail una volta l'ha aperta e ha detto cazzo si aprono, esatto, e, cioè, e ci ha trovato tipo una cosa con uno che invitava gentilmente a dire no, però se, dammi i soldi perché sennò, e poi è stato infezionato. Esatto, è stato infezionato. Quindi sai, ci sono sempre queste cose che girano da anni, da anni. Ma salutiamo, come insomma di consueto tradizione, il compito di Walter, le persone che sono in chat. Abbiamo Enrico, abbiamo la fotocopia di Cusella che si chiama Shake Your Booty, abbiamo Lobby Shake Frontali, Shake Your Booty, perché oggi siamo anglofoni, no? Abbiamo Lobby Frontali e abbiamo Stefano che dice vi voglio belli carichi perché così domani da lavoro vi ascolto, capito? Ci sfruttano, praticamente ci fanno fare la diretta, non ci seguono, poi l'indomani ma al infatti, lavoro ma chi glielo fa fare? Non infatti, cioè, chi ve lo fa fare? L'indomani chi, quando sono al lavoro ci ascoltano invece di lavorare, capito? Io sono fiero dei nostri ascoltatori Mastro anche Lindo, per questo motivo. Mastro Lindo Mani. Mastro Lindo Mani. Allora ragazzi, noi siamo stati tartassati durante questa settimana dalle battute di Cusella. Solo questa settimana? Alla fine questa è una prova intensificata. Ah, perché voi ogni settimana vi resettate. Fino a che a un certo punto in questa chat nessuno gli ha più risposto. Poi si è sentito, veramente nella chat si è sentito, cioè non è che è apparso scritto, ma proprio dallo schermo dello smartphone si è sentito mo a questo gli rompe il culo. Una cosa del genere, io non so bene cosa significhi o se si possa dire in radio una cosa del genere. Perché, infatti insomma, la parola mo io non la direi, esatto. Cioè, adesso si dice adesso o gli rompemo anche se potrebbe dire proprio, insomma. Però salutiamo anche Lobby Frontali che ci dice che lui che stasera purtroppo è un po' smoscio perché è stanco, ha lavorato tantissimo, ma noi saremmo la tua pillolina blu, guarda. Ti suggerisco di stare perché questa sera parleremo di cose veramente molto molto molto molto interessanti, perché sono successe quelle cose che tutti sapevano che sarebbero successe, però no, perché la democrazia diretta vince sempre. E vabbè, è diventata una democrazia diretto, se ci pensi. Sì, diretti, molto perché... diretta, esatto, diretta, molto diretta, diretti, molto diretto, perché hai detto, scusa Cusella, diretti perché fanno anche la lotta, quindi... Sto di più, dici, sono sì, tanti. Sì. Si danno le arie e sono molto diretti. Ecco, se l'era preparata e noi ovviamente abbiamo alzato l'assist. Avete abboccato. Vabbè, Cusella mi sta abbagliando con la maglietta più bella e scacciafiga del mese. Intanto che bella. Lui ci ha mostrato recentemente questa maglietta in foto. Ho comprato questa bellissima maglietta. Questa sera se l'è messa perché ci andava. Era lì sul tavolo stamattina. Ti guardava. Io farei uno scatto e lo metterei in qualche modo nella chat. Non so se questo sia fattibile. Guarda, provo a farlo io, però con l'effetto Yummy. Che così amplifichiamo i colori. Di solito mi rivolgo a Walter perché è quello un po' più tecnologico, insomma. Ma inoltre quella dell'altra volta. Ma io mi domando, voglio chiedere alla nostra timeline, sia ai 4-5 amici che abbiamo già salutato, sia a quel milione e mezzo. Aspetta, di ascoltatori silenti perché sono pavidi, se volete essere informati sul risultato della partita di Champions League. Non mi ricordo se avevamo degli juventini in ascoltatori. Non lo so, ma c'è sempre uno juventino. Io faccio il tifo per Diego Pablo Simeone, naturalmente, perché insomma è il Ciolo Simeone, certo, che non ho capito se gli hanno fatto un adeguamento di contratto da un sacco di soldi, insomma, voglio dire vabbè, d'altronde sono 7 anni che sta all'Atletico, i suoi bei risultati se li porta sempre a casa, insomma, quindi sai, momenti gioiosi. Però detto questo, insomma, sì, tu dai sempre gli aggiornamenti. Allora, è arrivata Michela De Paola che ci domanda sui, allora ovviamente si riferiva a Cusella, poi lo spieghiamo meglio, però dice i capelli, però non trovo giusto in questo contesto parlare di capelli. No, non è giusto, però diciamo che non è etico e va contro le minoranze. Walter ci fa una bella figura in questo caso. Certo. Sì, sì, è meglio la pettinatura de Sbarro che quella di Cosenza. Meno ovvio. Poi ricordiamoci pettinatura che io condivido niente poco di meno che con Sir Alex Raccuglia, che non ci ascolta mai, ma se ci ascoltasse saprebbe che condividiamo la pettinatura. Se lo sa, perché ci ascoltasse, sì, no, per dire, se ci ascoltasse se ne mentirebbe, quindi giustamente. Sì, ma sì, ma diciamo anche un po' i verbi a caso, perché insomma questa è la cosa. Se ci ascolterebbe, esatto. Tanto a cosa servono le lauree? Per esempio, lobby frontali, a che servono le lauree? Dacci un'interpretazione. Adesso che siamo nel XXI secolo, nella Quarta Repubblica, nella nuova democrazia diretta, ma a che servono le lauree? Chi laurea ti paga, non c'è. Soprattutto quando c'è su internet, che poi diciamo consultare in qualsiasi momento e ti dà tutte le risposte che vuoi, esatto. E anche quelle che non vuoi, ti dà tutte le risposte. Ma sapete che è interpellato su, diciamo genericamente, su Di Maio? Oggi Beppe Grillo ha dichiarato: con Di Maio ci vuole pazienza. Io me lo sono immaginato come un bambino delle elementari che ha bisogno della maestra di sostegno. Mi sono detto: ma questo, questo è il vicepresidente del Consiglio, due, però vabbè, esatto, lasciamo perdere. Fra tutte e due ci vuole pazienza, insomma. E vabbè, niente, comunque io che sono un illuminista, nel senso che ho studiato l'illuminismo, ero all'esami, ero pronto sull'illuminismo, tant'è che poi l'hai fatto tu l'illuminismo, esatto, tant'è che poi ogni tanto qualcuno diceva: ma io ti per l'esame roba genere, sì l'illuminismo per me c'è solo l'illuminismo, un argomento a piacere, l'illuminismo. E insomma penso sempre a quel legame affettivo che si era creato tra me e Jean-Jacques Rousseau, che lui si è preparato l'argomento, si è seduto, dice tanto la professoressa che è sempre un argomento a piacere, lui si è seduto, la professoressa ha detto: bene, parlami del romanticismo, e t'ha fregato. Sì. Vieni qua che ti sromanticismo io. Ecco. No, oppure il neoclassicismo, ancora peggio. Comunque, allora, stavo pensando a Jean-Jacques Rousseau che si sta ribaltando nella tomba. Perché... Sì, al fatto, considerando che è stato, diciamo, preso per riferimento per una piattaforma di democrazia diretta, la chiamano loro, che oltre a essere un collaboratore informatico, esatto, della peggior specie, serve anche a far votare 50.000 persone, se va bene. E questo 0,% della base elettorale del Movimento 5 Stelle è ancora più 0,% di quello che è il campione elettorale italiano, ha il titolo per decidere se dobbiamo o non dobbiamo processare un ministro in carica nello svolgimento. No, se è giusto o meno. Se giusto, se è giusto o meno. Certo. Perché proprio, cioè, anzi no, se è proprio, bisogna proprio giudicarlo, perché da come era stato messo si doveva giudicare, cioè lui ha davvero commesso qualcosa contro, diciamo, cioè, a favore dell'interesse nazionale o la cosa personale, cioè tu elettore devi giudicarlo, cioè devi dare la tua, secondo me sì, secondo me no. Capito? Era questa la cosa. Ma cioè, poi però dovevi ancora dire sì se pensavi di no, no, dovevi dire no se pensavi di sì, esatto, quella è la cosa, esatto, bella. Infatti, attenzione, c'è quella senatrice del Movimento 5 Stelle, che presto sarà un'ex senatrice, adesso non ricordo, che dice che non soltanto c'era questo fatto che per dire sì devi dire no, per dire no devi dire sì, ma praticamente c'è anche il fatto che in teoria il Movimento 5 Stelle non avrebbe dovuto rivotare su una cosa che faceva parte dei principi fondamentali del movimento stesso, perché questa cosa era stata già stabilita in origine, no? Quindi, cioè, in definitiva, poi alla fine quello che è stato fatto oggi è stato semplicemente, anzi, ieri, no? Ieri era? Ieri, assolutamente. Ieri, era semplicemente una sorta di, come posso dire, ma sì, dai, mettiamoci una pezza, perché non possiamo, cioè, un tradimento a tutti gli effetti, dai, tradimento a tutti gli effetti che insomma. Allora, intanto la senatrice Nunez, che è quella che tu stavi giustamente citando, probabilmente, esatto, è una di quelle, perché sai che il Movimento 5 Stelle ha detto che i parlamentari che non sono d'accordo si possono dimettere. Quindi siamo proprio al fatto che l'opinione non conta più un emerito cazzo. No, ma questo dimostra, vabbè, che non contava un cazzo, questo qua l'avevamo già capito in principio, perché loro ovviamente hanno votato questa specie, non so se è pure questa mezza leggenda metropolitana, ma hanno votato questa specie di contratto, diciamo. Non l'hanno votato, l'hanno sottoscritto. Sottoscritto, scusate, sì. Infatti, ma perché non l'hanno fatto votare? Vabbè, ma perché me lo chiedo, insomma. Esatto, esatto. E quindi, vabbè, il discorso dell'opinione, ma è questa costante e sistematica procedura di autodistruzione che sta facendo il movimento, che da una parte è atta a cacciare chiunque sia, perché cioè ormai si stanno a cacciare veramente fra di loro, cioè in una maniera veramente incredibile. Presto il Parlamento sarà composto da un'enorme zona mista e poi i partiti regolari. Ma io infatti, raga, cioè fondammo il partito misto, cioè lo chiamiamo partito misto, il e poi partito c'è... fritto misto, la frittura globale cioè, totale che prendiamo un sacco, cioè abbiamo già i seggi nel Parlamento senza neanche passare per le elezioni, cioè. Ma voi considerate che in uno dei rari, ormai sempre più rari momenti di lucidità mentale, l'altro giorno anche Grillo ha dovuto inevitabilmente incazzarsi prima che si votasse, prendendo atto del fatto che c'era questa ambiguità in come era espresso il quesito da votare, aveva detto questa cosa che era, dice, ormai siamo in una via di mezzo tra comma 22 e sindrome di Procust, che ovviamente è stata una mazzata. Poi lui ha voluto sminuire dicendo che era una battuta, ma in realtà gli ha mandato un messaggio ai suoi abbastanza forte, abbastanza incisivo, esattamente come poi ha fatto, ormai inutilmente, all'indomani del risultato, Marco Travaglio nell'editoriale sul Fatto Quotidiano, dove ovviamente ha blastato il Movimento 5 Stelle, ha detto hanno salvato un'altra volta Barabba, con l'aggravante che questa volta non c'era neanche Gesù come alternativa da salvare, e quindi sostanzialmente ha avuto parole pesanti, ma che ovviamente lasciano il tempo che trovano, perché sono tutti buoni a saltar via dal carro dei buffoni quando ormai il gioco si è scoperto. La situazione è che voto per pieno, il Movimento 5 Stelle rischia di perdersi circa il 40% della base elettorale. È stata stimata, in questi giorni si stima più o meno in questo quantitativo, che voglio dire è quasi la metà, non è, cioè riporta i numeri del Movimento 5 Stelle a uno dei tanti partiti che ci possono essere in Italia, e non più a poter essere, se questi numeri si dovessero confermare, il primo partito d'Italia. Quindi in ottica elettorale, considerando che molti di quelli che invece hanno votato per salvare Salvini, passatemi il gioco di parole, domani potrebbero dire, ma a questo punto sapete che c'è, perché devo votare per la copia Pezzotta se posso votare direttamente per l'originale? Quindi magari voteranno direttamente la Lega, soprattutto al centro nord, perché mi auguro che al sud minimo di lucidità qualcuno gli sia rimasta. Beh, insomma. Ma anche se c'è chi è contento di Salvini, che alla prima occasione poi glielo comunque sfonderà nel di dietro. No, lo sta già facendo con le autonomie. Esatto, cioè. Con le autonomie. Non lo vogliono capire. Però... Il problema è questo. Che no, bisognerebbe fare. Con le autonomie, come dice Salvini, chi non governa bene poi va a casa. Va a casa. Cioè, sì, va a casa. Sì, sì. Comincia a governare con meno 100 milioni di buffo e poi ne riparliamo. Intanto ridacci anche i 47 milioni che ci non erano 49, insomma, 49, gli ho 49, fatto lo sconto. No, vabbè, insomma, la situazione è veramente a ridicolo. Cioè, sono riusciti a distruggere, ha detto prima Simone, sono riusciti a distruggersi un capitale elettorale non da poco, il 5 Stelle, nel breve volgere di qualche però, mese ragazzi, di governo. Ragazzi, resteranno solo i migliori, quelli più convinti. Solo i migliori, sì. Vabbè, sì. Perché è un po' tipo Highlander, no? Cioè, nel senso che il Movimento 5 Stelle è composto da highlanderisti, quindi stanno lì e ne rimarranno solo. Vabbè, che se tagliano la capaccia a vicenda. Vabbè, esatto, vabbè. Dovrebbero prima farlo con gli altri. Quelli cioè, portali se tagliano la capaccia. Teoricamente, cioè, quando tu vai lì a fare la caccia alle streghe, prima cacci le streghe, poi quando hai finito le streghe cominci a cacciarte tra te stesso, perché non c'è che nel tuo gruppo, cioè, no, se no non c'ha senso, cioè, non è che prima ti distruggi tu poi... Strano questa cosa, cioè ovviamente movimento del strano. Movimento vabbè, comunque strano. Il Movimento 5 Stelle che praticamente comunque alla fine non ha fatto altro che aprire la strada al successo elettorale della Lega che tra l'altro anche grazie a Capitano Salvini è riuscita praticamente a entrare nel cuore della gente. La gente non lo chiama più Salvini. Nel cuore, perché in realtà la gente non lo chiama più ministro o Salvini, ma lo chiama Matteo, non vanno in giro Matteuccio. Che sta cosa mi ricorda un po' anche come Silvio ma quello Benito posso vogliamo... dirti una cosa pure io sei una merda letale. Esatto, infatti succede che tutta la gente che lo incontra per strada, perché giustamente Salvini che vuoi che fa, cioè come ministro non sapendo fare molto va in giro per strada, parla. Ma ricordiamoci, perché lui è costantemente in campagna elettorale, perché sta preparando, io sono convinto H24. Lui sta preparando il terreno a far cadere il governo quando farà comodo a lui per andare a vincere. No, ma la cosa bella è che non cadrà, perché lo deciderà lui ufficialmente, cioè apparentemente darà anche la colpa agli altri, apparentemente o sarà costretto, cioè ragazzi io purtroppo non posso fare altrimenti tutta, ma... o sarà lo stesso Di Maio, questi non mi hanno fatto fa mezza cosa Di Maio proprio in un impeto di seppuco che dirà no basta adesso andiamo alle elezioni accidenti, perché dovrà essere proprio una cosa che sarà colpa dei 5 Stelle. Ragazzi, tanto la questione qual è? Adesso l'unica cosa che rimane da fare a Di Maio, e in qualche modo hanno già preparato il terreno, è annullare l'ultimo dogma dei 5 Stelle, che è il limite dei due mandati in Parlamento. perché ovviamente il limite delle velocità, altrimenti lui non si potrebbe ricandidare, no, per il terzo mandato. Lo ha già, lo stanno già imbastendo, lo faranno. Tra l'altro Pizzarotti in un lungo post su Facebook ieri praticamente gliene ha cantate, cioè gli ha fatto il resoconto di tutte le cose che si sono rimangiati in questi 8 mesi. È devastante. Lo stesso Pizzarotti che all'epoca, ricordatevi, volevano non solo cacciare perché era stato indagato per il termovalorizzatore a Parma, salvo poi essere stato assolto, ma poi volevano anche dirgli vattene a casa perché ha raggiunto il limite dei 2 mandati. Lui si è ovviamente ricandidato con una lista civica e continua a fare belle cose a Parma, quindi uno che aveva i meriti e le capacità lo volevano cacciare. Così, questa chi cosa sa fare non va bene. Ricorda, chi sa fare, chi non sa insegna, si dice, questo è peggio, e chi non sa governa. Comunque, tornando a Salvini, che stavo dicendo, appunto, mi è stata strappata la parola con violenza. Salvini va in giro. Salvini va in giro a fare campagna elettorale, fare eventi, fare cose, insomma, incontra molta gente, perché è importante questa questione, no? Del fatto di incontrare tantissima gente, perché stai lì e sei Salvini, abbiamo detto Matteo, per favore facciamoci un selfie, io ti voglio bene, facciamoci un selfie, sì, grazie, io credo in voi credete in me, voi io mi fido, voi sei una merda, sei una merda letale. Allora, io mi ricordo, una merda letame, quindi raccontando questa cosa, che alcuni dei ragazzi è nata questa moda di incontrare Salvini, facciamoci un selfie e poi insultarlo durante il video su Instagram, e questa cosa, insomma, ricordiamo che una volta un personaggio così, uno basso, un protestatore, diciamo così, un contestatore, è costato praticamente un oppositore del regime, esatto, contro Silvio Berlusconi. A questo l'hanno preso quelli da Digos, l'hanno chiuso dentro un negozio, si è visto il negozio che si muoveva e poi dopo un po' è uscito più o meno sulle sue gambe, esatto, insomma, quindi ricordiamoci che queste cose, diciamo, non si fanno quando ci sono questi regimi un po' autoritari, no? Quindi io immagino quella ragazza di 19 anni che è andata là, Salvini, io mi fido di voi fidate di me, sì, però ti posso dire una cosa, sì, sei una merda letale, no? E lui stacca, cioè se vede il video proprio che stacca. Lui cerca di allontanare, tipo, vaffanculo, cioè, nel senso, io penso che, secondo me, se fosse stato un uomo più grande, secondo me se lo inculavano. Ragazzi, il discorso è che mo ormai ha capito l'antifona, entro un paio di giorni si farà circondare da 4-5, appunto, membri della Digos, pagati da noi, peraltro, e quando uno attraverserà la strada sul marciapiede opposto lo meneranno per saperne leggere scrivere. Per default. Senti, c'è una musichetta triste al volo? Una musichetta triste ce l'abbiamo sempre. Perché volevo leggere una testimonianza di Lobby Frontali. Aspetta. Che merita il giusto sottofondo. Io oggi a una riunione, alcuni colleghi ci stavamo lamentando della doppia tornata elettorale a maggio, comunali più europee. E io ho detto, che palle sta democrazia, Subito è saltato fuori uno con la soluzione pronta, ossia far votare tramite Rousseau. E giustamente Chiosa dicendo, sono dappertutto! E c'ha ragione. Rousseau è il futuro. No, Rousseau è il passato, infatti è una versione buggata del CMS che usano, perché è dei 5 anni fa. Eppure deprecata, però lasciamo perdere, vabbè. Deprecabile soprattutto. Ecco, soprattutto deprecabile. È importante, insomma, quindi se tu incontri Salvini, Gualdi, che fai? No, io gli stringo la mano. Però prima faccio qualche altra cosa con quella mano. Ma questa mano è un po' umidizia. Che poi alla fine mi mandano le lettere, sai com'è? Sai, è la stessa bella, della Salvini, bello, bravo, se mi posso accarezzare tutto, Salvini, vieni qua che ti accarezzo tutto. Io faccio stringere la mano, poi dico, guardandolo negli occhi, questa non è la mano. Qualcuno ti potrebbe dire, questo non è Salvini, ma è un campanello. Un citofono. Tu invece, Simone Cusella, cosa faresti? Però aspettate, fermi tutti. Immaginatevi la scena, ma non di una persona qualsiasi che arriva lì, viene al selfie e comincia a leccare la faccia a Salvini. Se non si stacca più, cioè, immaginate. Guarda che lui ha bisogno d'affetto, secondo me se lo fa fare. Sì, ha voglia. Io, se avessi Salvini con me, gli direi, a Matte, facciamo una bella canzoncina, io e te, così. Rappiamo un po'. Facciamo un po' di style, yo. E poi? E poi non si sente. E poi non lo so, perché qua la regia non mi dà aiuto, perché mi sa si che può c'è, lavorare mi sa che così. C'è un canale chiuso. Apri tutto. Apri tutto. Il giornalista, quando blocco i barconi sono un sequestratore, quando li metto sull'aereo sono senza cuore. Che se poi dici Gemitai, se sto va su Instagram, dice andate a insultare Salvini, e c'è una sequela di imbecilli, carichi di clandestini, per aver controllato meglio i confini, aiuteremo i paesi africani a costruire strade, scuole, ospedali. Ma chi l'ha fatta sta cosa? Un bel po' di risparmi. Il canale di tale Claudio Dodoi, poi non so. Siamo brutti, cattivi, razzisti, egoisti, fascisti, populisti, sovranisti. Quando blocco i barconi sono un sequestratore, quando li metto sull'aereo sono senza cuore. Quando andiamo siamo brutti, cattivi, l'ha fatta uno di noi, fascisti, populisti, sovranisti. Bella però, dai, devo dire, funziona. Ma poi questa cosa della destra, questa cosa della destra canterina, ho visto che un po' funziona, si vede che nel loro modo di esprimersi dal punto di vista demagogico sono esatto, infatti, sono perché c'è un'altra, un'altra tizia che alla fine a lungo andare insomma sembra sì. So se la regia insomma è in condizioni di non credo, però la regia sei tu. Guarda, sta avviando un atto ostile nei miei confronti, perché mentre una ragazza sentiamocela bene, perché il bandiera olandese a fare il trasbordo di immigrati clandestini a casa mia, oppure l'Olanda mi dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata e quindi queste persone si fanno sbarcare, l'equipaggio si arresta e la nave si affonda. E se la nave si affonda, aspetta, perché l'Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti. Buon prepara. Olanda. Olanda. A me non mi piace il formaggio. Olanda. Grande, grande, grande radio, grandi momenti e grande politica soprattutto da parte della Meloni, che ovviamente quando entra Mick Jagger spacca. Comunque vabbè, no, posso dire una cosa, a me è successo di incontrarlo Salvini. È successo purtroppo, o per fortuna, forse diciamo per fortuna, qualche mese prima delle elezioni. Ma è successo quando tuo cugino è morto? Tre giorni prima. Quando è resuscitato. Niente, io ero con Valentina a un passeggio per Circonvallazione Ostiense. A un certo punto lui esce da un centro dove probabilmente aveva tenuto un convegno o qualche cosa del genere, con 4-5 dei suoi scagnozzi, al che a distanza ci guardiamo, ma è lui, sì è lui, al che ad alta voce, amo, cambiamo strada che c'è qua merda dei Salvini, ed è finita così. Mi auguro ci abbia sentito, però insomma non lo so, ecco. Non lo so, a me mi è capitato invece di salire sul treno con come si chiamava l'ex scagnozzo de Berlusconi. Ce n'avesse avuto uno solo. No, quello che poi dopo l'ha anche tradito, che ha fatto il governo con... Ah, Fede. No, l'ha tradito però, cioè, chi sei? Alfano. Roma Palermo, cioè, sono stato sull'aereo con Alfano, che bellissimo uomo, circondato bellissimo. Da due belle ragazze. Guarda, perché... ti ricordi che Alfano all'epoca del governo di centrodestra sinistra tutti insieme appassionatamente era quello che veniva trollato, perché era, diciamo, in quel momento era il Toninelli di turno, ma col senno di poi era un genio. A voglia. In confronto a quelli di adesso era un genio. Chiunque è un genio. Beh, diciamo che nel tracollo totale di quel centrodestra, di quell'esperienza drammatica che alla fine stava andando verso un totale declino, è colui che in un modo o nell'altro si è assicurato in altri 2 o 3 anni di sopravvivenza. Sì, quello ha detto, sai che quindi... c'è Pio, quello che c'è finché c'è. Esatto, infatti è... Che poi è la stessa cosa che ha fatto Fini quando non ha mollato la poltrona da presidente della Camera e poi è sparito, blastato da sì tutto. Anche se Fini secondo me sbagliando, perché con un tempismo insomma è molto molto discutibile, diciamo che un po' a un certo punto a Fini il dubbio morale gli è venuto, cioè secondo me per uno che veniva da Guarda, un altro tipo di politica. Io ti dico una cosa, io tra quelli che potevano essere tra virgolette gli avversari politici avevo sempre riservato a Fini una forma di stima. Poi dopo, quando invece la situazione è trascesa completamente, poi con tutta la storia anche del fatto che insomma, come posso per dirlo in maniera tecnica, figa giovane non ci ha capito più niente, no? Perché pure lui tutto sommato quando si è sposato con questa donna più giovane è completamente sbullonato. Quando ha cominciato ovviamente, poiché aveva tradito Berlusconi in quel momento aveva ancora un certo potere, ha sguinzagliato tutti i mezzi tecnici possibili per far uscire fuori le peggio magagne su Fini. E uscirono fuori addirittura le cose che aveva fatto comprare il pulmino alla camera e lo usava lui per mandare la figlia, la moglie con i figli al mare, tutte quelle cose insomma. Beh, lì proprio è diventato la peggior come posso dire, la peggiore incarnazione di un politico da quattro soldi. Quindi per carità, poi tu mi dirai ha avuto un momento di lucidità successivo, non lo so, fatto sta che se anche lui insomma è invischiato in qualche vicenda giudiziaria, anche tutto sommato da poco, perché rispetto a tanti altri ha fatto veramente poco, però insomma non è uscito per niente bene, ecco. Si è beccato gli ultimi colpi di vendetta che Berlusconi ha potuto sparare prima di diventare un essere inutile. Allora io, ragazzi, adesso parlando di Berlusconi, di berlusconismo, di 5 stellismo, io lancerei un referendum. Dai, facciamo un referendum, perché secondo me è giusto, perché noi ci esprimiamo sugli uni e sugli altri, ma è giusto capire realmente, a meno o meno per la percezione, chi sia meglio, cioè se il governo Berlusconi o il governo 5 Stelle Lega. Non me la fa sta domanda, perché però non, ti faccio non questa domanda. Secondo voi è falso che il governo Berlusconi è meglio del Movimento 5 Stelle? Quindi se rispondete sì è no, se risponde no è sì. Chiaro? Allora rispondete a questo sondaggio in migliaia, perché blu. Utilizziamo la tecnica di sì, assolutamente. Però prima di rispondere a questa domanda, ricordatevi anche di rispondere alla domanda: è meglio un culo gallo in panza o una panza galla in culo? Che è importante questa cosa. Esatto. Perché se rispondete sì, secondo me è un significa po'... no. Se esatto. Rispondete no, significa sì. Sì, esatto. Però se rispondete sì e no, significa forse. Perché poi numero due. Cosa? Vabbè. Io voto. Serviamo il numero 2. Sta chiamando i numeretti al banco dell'affettati. Ah. Regalo affetto, chi vuole un po' di affetto. No, invece parlando di Berlusconi, ragazzi, io mi sento di lanciare un appello, perché qui la situazione è diventata vera. Ma quello è un animatrone comunque. No, ma il come dire, il mio sentimento verso Berlusconi è passato da rabbia a proprio a compassione umana verso un povero vecchio. Che ormai si è barricato nel camerino di Barbara D'Urso, secondo me, perché tutti i giorni e tutte le domeniche sta nei suoi programmi e poi eventualmente nell'arco della giornata anche in altri programmi. Ma lì lo smarmellano? Sì, smarmellano come la D'Urso? Ma lì la cosa è stupefacente, smarmellano più la D'Urso. Cazzo, capito? È brutta sta cosa, eh? Eh sì. Molto brutta. Però voglio dire, Porello, lui mi dà l'idea di uno che va lì, perché sotto non è... sì. Parlo di politica, Americandido, cioè, però secondo me sotto si aspetta il soffocone. Può essere, sì. Ma da chi io? Da Barbarina, dai. Anche un bel secondo. Barbara D'Urso, ragazzi. Barbara D'Urso a volte penso che sia quasi una leggenda metropolitana, una di quelle cose che in realtà lei è pure un animatrone, cioè piuttosto è un animatrone. È una troia anche, sì. Ragazzi, giusto. Se qualcuno ascolta queste puntate, la Digos veramente ci arriva sotto casa. Io direi che Digos, animatroia. Mi piace questa cosa dell'anima troia. Da adesso in poi me la... Perché siamo tutti un anime un po' troie, diciamo. Sì, soprattutto anima troie. E vabbè, niente, quindi... No, ma ci dicevi delle leggende metropolitane, perché tu secondo me volevi fare anche un gancio. No, sì, però poi alla fine stavo a pensare, cioè, non so se vi è mai capitato, perché questa è l'epoca delle... pure oggi discutevamo, no? È l'epoca di Rousseau, ma allo stesso tempo della falsa politica, delle fake news... Le zicche news. Che poi in realtà, se ci pensiamo, le fake news non sono nient'altro che una sorta di estensione, di figlio minore di quelle che una volta erano le leggende metropolitane. Le urban legends. Vediamo la prima leggenda metropolitana stupida che ti viene in mente, Sbano. Cioè, coccodrilli proprio... dalle fogne di Dio. Esatto, quella dei coccodrilli albini. Albini. Guardi, una così. Il ragnetto del tronchetto della felicità. Questa non la so, ma come lo sai? C'è un momento di gelo, no? Ma ce la devi raccontare, non fa riassunto. Sì, breve. Il ragnetto mortale che usciva dal tronchetto della felicità. Ah, e morivi. Certo, Simone, uccideva. C'è stato un periodo che era pieno di tronchetti della felicità abbandonati davanti ai cassonetti. Ah, pensavo che quando volevi ragnetto, quando c'era una persona che odiavi, tu gli regalavi un tronchetto della felicità. No, la gente non ci arrivava, però c'era questa cosa. Cazzo, non conoscete la leggenda del tronchetto della felicità? Mannaggia. Io dico, le donne col pisello lo sanno tutti che non esistono, sono un'invenzione. Esatto, Cusella. Beh, dovresti... Ricordate la panza galla in culo. esatto. Io infatti c'è rimasto un po' interdetto, perché in realtà qualcuno potrebbe... Ma anche la mafia non esiste. Potrebbe smettere, esatto. Ascolta, una di queste sere te portiamo a fare un giro sulla Cristoforo Colombo, però te ce lasciamo. Esatto. La mattina dopo te veniamo a riprendere e ci dici. Mi accontento della salaria. No, no, sulla Salaria no, sulla Salaria è un'altra categoria. Troppo bello. No, no, no, cambia l'articolo. Che non è neanche così male la Salaria, devo appunto, dire, eh? Ma sulla Colombo. No, no, mi va bene la Salaria. Sulla Colombo mi possiamo bene, smentire la tua teoria di poc'anzi espressa, ecco. Sulla anche Colombo c'è la scoperta del nuovo mondo, appunto. Pure a Cinecittà, io mi ricordo un amico mio che passava, ha detto: ammazza quanto è buona questa. E poi, che poi. Come ti chiami? Marta, ti piace lo sfilatino? Esatto. Sì, succede. Però, insomma, qualche volta ci si confonde un pochino, perché alcune potevano, insomma, lasciar presagire, insomma, di una femminità nascosta. Sì, tu guarda sempre il pomo d'Adamo, Gusella. Prima di vero, cosa. È vero. Ecco perché c'hanno sempre la sciarpetta. C'hanno la sciarpetta, perché in realtà. Beh, come Gioia Trebbiani in Friends, che una volta è uscito con una ragazza. Beh, bella, è bellissima. C'era sto pomo d'Adamo. Veramente prominente, cioè, no. C'era questa pubblicità che ovviamente in Italia non l'hanno mandata, perché in Italia questo tipo di pubblicità è troppo osa troppo, no? In cui praticamente c'era questa coppia che arrivava a casa, lui era felicissimo, cioè si era portata a casa sta top model da 1,90 m, una statua bellissima. Allora si preparano per andare a letto, lei gli dice la classica frase tipo: caro, vado un attimo a rinfrescarmi in bagno. Lei va in bagno e lui dice: adesso vado in bagno, la sorprendo, la trova che fa pipì in piedi. Cioè. Lì sono brutti momenti. Aveva l'imbuto. Sì, sì, sì, sì, sì. L'imbuto. Però ci sono alcune leggende metropolitane che a volte, più che essere ben congeniate, diciamo così, risultano quantomeno plausibili, perché magari, insomma, partono da un presupposto che tu non è che conosci bene magari la materia, no? E magari quando queste notizie o queste leggende metropolitane o queste fake news alla fine, che ne so, finiscono nei normali circuiti di divulgazione, uno dice: vabbè, cioè, vedi che cosa strana. E mi ricordo che c'era questa cosa nel 2015, non so se ve lo ricordate, che la NASA aveva detto che da lì a breve ci sarebbe stato praticamente, la Terra sarebbe entrata in una fase di 15 giorni di buio consecutivo. Vabbè, tutto... Pizzo, ma quello è Nibiru, dai, su, cioè sta storia delle cose, c'è sempre una nibirurata. Però questa cosa dice che non succedeva da 1 milione di anni, era dovuta al fatto che si creava una sorta di... Un milione di anni fa c'erano, esatto, i testimoni, esatto, che dice, cazzo, esatto, è buio, e l'hanno scritto. Però beh, questo lo dicono come quando ti dicono è l'estate più calda da 250 anni a sta parte, no? Cioè, dice, ma tu come lo sai? Esatto, cioè a volte dice vabbè, però dall'analisi del carbonio 14. A proposito, ieri poverito, c'è stata la superluna. Ah, bello. Non l'ho vista di persona, io non l'ho vista, però siccome che so già 15 volte che fanno la superluna negli ultimi 2 anni, esatto, cioè, ma basta, cioè, ma vedo tutto il cazzo. Luna è la tipa della Salaria. No, è il 2, è quella che viene dopo, prima delle 2. Cioè basta, avete rotto il cazzo con questa cosa della superluna. La luna più bella e grande e luminosa della galassia negli ultimi 100.000 anni, poi dopo un mese ce n'è un'altra. Cioè basta. Secondo me c'è capire qualcosa che non va e non te lo dicono. Non ti lo stanno dicendo che la luna si sta schiantando sulla Terra. Questo è Nibiru, non è la luna. Esatto, è Nibiru, dove dentro c'è, dentro Nibiru ci sono? I Niburani, che ci sono? No, ci sono, no, dai, quelli quella razza cattiva che ci vuole. I rettiliani. I Nubi. Ci sono i Nubi. I rettiliani. Comunque. No, i rettiliani, le mantidi ci stanno. Ma no, c'è proprio gli Anunnaki, una cosa del Anunnaki, genere. Anunnaki, gli Anunnaki. Esatto. E anche i Nigiri ci stanno, probabilmente. Quelli sono buoni. Ci saremmo invasi dal sushi che ci uccide a tutti. Però vi ricordo, forse... chi è di Roma? Salverò io. Questa cosa forse chi è di Roma non la sa, ma probabilmente questa cosa si sarà propagata in tutte quante le città. Ma c'era praticamente negli anni 80-90, si diceva, c'era un negozio a Via del Corso dove le ragazze andavano a provarsi le cose. Un negozio abbigliamento. Sì, però non c'era proprio un negozio preciso. Uno specifico, adesso non me lo ricordo. Quindi, negozio di prova di abiti. Esatto, e le ragazze andavano lì perché erano i negozi più di moda, perché era Via del Corso, perché era il centro, perché quello che vi pareva. E praticamente succedeva che queste ragazze entravano nei camerini a fare le prove e una su X non riusciva più, spariva. C'era la tratta delle bianche, queste ragazze venivano rapite e venivano vendute, che ne so, all'arabi, per dite, no? Cioè, nel senso, insomma, una cosa assolutamente drammatica, no? E io devo dire che a un certo punto, quando ero proprio ragazzino, a sta cosa un po' ci credevo. Ma la cosa che mi ha sconvolto, perché ovviamente è una leggenda metropolitana, che, nel senso, perché poi è andata avanti per decenni sta cosa, cioè, ma se fosse vero, no? Cioè, secondo me mi sembra normale che sto negozio continua a essere aperto e la cosa fa bella gli cambi la ragione sociale, Pizzi. No, ma pure la cosa bella è che non c'è famiglia a Roma negli anni 80 e 90 che non abbia vissuto questo racconto da parte di una persona a sua volta conosciuta, esatto, che dava per scontato, no, perché questa mia amica, che amica mia, esatto, l'amico fortunatamente il compagno era poliziotto, ha visto che non usciva per un sacco di minuti, allora è entrato, ha capito che qualcosa non andava, ha chiamato i colleghi ed è scomparso pure lui, ma possibile, cioè, esatto, è ma scomparso possibile il negozio vabbè. E questo è l'effetto, il famoso effetto telefono senza filo, però la cosa che basta cambiare la regione sociale, pizze, sì, sì, sì, vabbè, però la cosa sconvolgente come fanno i pizzettari, non è tanto il fatto che alcune leggende metropolitane pensa, capito? Che il pizzettaro famoso sotto casa che faceva fate parlare, la stessa cosa, no, fammi finire questo fatto, allora dico anche io che leggende urbane, parliamo tutti, la gente non solo scompariva sul retro ma lì rimaneva, tant'è che gli hanno fatto un multone perché aveva 8 persone in cucina tutte in nero, eh sì, ma erano nere, è normale che fosse scusa, però diceva scusa sono nero, vabbè, brunite. Comunque la cosa bella è che se le leggende metropolitane a volte resistono oltre anche il senso logico, tant'è che noi sappiamo, e Gualdi può confermare, che non c'è una persona che ancora dice ma era vero, cioè ancora oggi dice insiste, ma guarda che è vero, era vero, cioè succedeva veramente questa cosa, insomma, vabbè, diciamo è un po' come la Red Bull che dentro c'era lo sperma del toro, cosa, tu lo sapevi, c'era sì, la sperma, sì, io ero fattissimo di Red Bull da giovane, da giocare, infatti eri pieno di sperma di toro, esatto. Che schifo. La bevevo e i miei amici mi guardavano. Però bevi lo sperma del toro. Posso dire una cosa, Pizzi? A questo punto noi abbiamo... poi faccia pure schifare Red Bull, vai, vai. Abbiamo un contributo musicale che è perfetto per questo aneddoto. Vai, vai, vai col contributo musicale. Ecco, c'è un po' di intro in questo. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita. E dire a tutti che sto bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, di toccarti, toccarti. Toccarti. Ecco, ha sentito toccarti, Cusella si è svegliato. Si è svegliato Cusella al toccarti. Sto pensando a un'altra canzone che cita i coccodrilli. Che coccodrilli? Coccodrilli. Comunque per la PFM addirittura. La PFM addirittura. Che vuol dire? Premiata Forneria Marconi. Grande, vabbè, volevo sentire, vabbè, dire dal pischello. No, lo sapevo. No, lo so, che lo posso... Perché Gusella ha una spropositata cultura musicale. Ma adesso noi questa strano cosa che è inversamente proporzionale alla sua cultura vestiaria, la insomma, cioè, esatto. No, la cosa inquietante è il modo di vestirsi di Gusella, che per certi versi ricorda Sheldon Cooper. Perché sempre queste t-shirt, Sheldon Cooper è sempre solo quelle dei fumetti, no? Lui ha solo quelle di riferimento metal e musicale, oppure di Rick e Morty, però insomma c'è questa simpatica assonanza, vabbè, così. Vabbè, comunque andando invece in ambito dei videogiochi, io vorrei sapere chi di voi non ha mai sentito parlare di Polybius. Tutti i giorni. Perché Polybius è un cabinato storico, insomma, negli anni 80, nel periodo in cui c'era l'esplosione dei cabinati. Dove... Ah, io ci giocavo sempre. Tu a Polybius, sì, vero? Sì, sì. Infatti, esatto. E secondo me, se voi ci pensate... Costava 100 lire. Secondo me, se voi ci pensate, ci avete avuto un amico... che ci ha giocato a Polybius e poi ci avete aiutato più, perché tant'è che questo Polybius non soltanto era un po' discusso perché pareva che creava un po' di nausea, di mal di testa, dei vari effetti collaterali, ma insomma la gente voleva giocare solo a sto cazzo di Polybius. Ah, il Virtua Boy. No, vabbè, stava lì e praticamente tutti volevano, e tant'è che per un periodo di tempo tutti i bar, i Pac-Man, gli Space Invaders, non li volevano praticamente, perché le bar, esatto, i bar non li volevano perché volevano tutti giocare a Polybius, e poi però insomma questo Polybius c'aveva tutti questi bruttissimi e drammatici effetti collaterali, tant'è che insomma poi alla fine pare che per un intervento insomma del governo americano un po' di... sti cabinati sono spariti tutti ma tutto tutto il mondo. Lasciavano le scie. Venivano quelli della CIA in Italia e le portavano dei in black. Non c'è più traccia di un Polybius. I Bed in Breakfast. Eppure noi ce lo ricordiamo, no? Polybius. Ci abbiamo giocato. Pensate che è una leggenda metropolitana così famosa da avere addirittura un lemme su Wikipedia, in italiano peraltro. Tant'è un lemma, un lemma, un lemma, un lemma, un lemma, un lemma, un lemma, quello da Luna, il lemma. Sì, dice praticamente che Polybius è stato questo ipotetico videogioco arcade sviluppato da una presunta società chiamata Sinner Schöchen, protagonista di questa leggenda. Quindi addirittura su Wikipedia, se andate a cercare, insomma. E ci sono anche delle foto testimonianze, ma in realtà è una ricostruzione di quella che sarebbe potuta essere la... Che poi sembra un cabinato come tanti altri nella ricostruzione, ecco, poi non so se... Ecco, questa è una delle... Io sto guardando un gameplay, è una roba allucinogena, allucinante. Cioè. Però diciamo, come tutte le leggende bello, metropolitane, cioè, parte da un fondo di verità. Perché poi partiamo grafica, da questo presupposto, no? In questo caso la leggenda metropolitana parte dall'assunto che effettivamente alcune emissioni di luce a determinate frequenze possono indurre attacchi epilettici. Non so se tecnico lobby frontali ci può dare. Guarda, io ti assicuro che in tantissimi anni di discussioni sul retro game con roba del genere, io ti dico che c'è gente che è convinta che questo videogioco sia esistito, e non solo, di averci anche giocato. C'è gente che ancora, c'è una sorta di dibattito che sostiene che questo videogioco non è vero che sia un totalmente inesistente, cioè nel senso che comunque c'è questa storia misteriosa sotto che alla fine rende il tutto più affascinante, perché poi quando c'è il mistero sotto è quello che fondamentalmente c'è. Se tu prendi il gioco dei Pokémon fanno venire il mal di testa, tutti fanno polemiche, sto gioco dei Pokémon lo levano, no, dopo un po'. Pokémon. Però tu non puoi dire che il gioco dei Pokémon non sei sicuro realmente se sia esistito o no, e questo invece è l'effetto a meno che il gioco dei Pokémon, facendoti venire il mal di testa, perché ti sfotte la memoria e quindi te lo dimentichi. Ti spara flash. Beh, fatto sta che i produttori di console ormai se ne sono lavati le mani, mettono un avviso all'accensione della console che dice, che inizia e recita: epilessia fotosensibile, esatto. E ti spiega, attenzione, sappi quando troveremo un avvertimento che ci dirà pericolo di morte, allora lì forse dovremmo smettere di giocare. Ma secondo me il cartello che all'accensione dovrebbe essere: attenzione, scacciafica. Ma vabbè, non è che è vero, anche non è un che po' vero. Meno di prima, non sì, è vero. Un po' no, meno no, di oggi prima. I ragazzi ci giocano. Sì, a voglia. Poi sono tutte fighe. Mo adesso sì, poi adesso è il periodo delle youtuber che giocano davanti a che mettono in mostra mezze nuove de fuori, esatto. Ma no, ragazzi, per giocare bisogna essere liberi, cioè, non è che poi sta lì con la maglietta addosso. Se YouTube ti permette di monetizzare così, è giusto che lo faccia. Ne elenco una, ragazzi. Comunque io c'ho una leggenda, quella è la vostra leggenda urbana più recente. No, aspetta, io ce l'ho, l'ho qual trovata, è ragazzi. La leggenda urbana che Marco Gualdi pensa di aver non creduto. No, io ci ho creduto a questa, perché è recente anche. Vai. Riguarda Cesare Cremonini. E cioè il fatto che Cesare Cremonini fosse figlio di quello che delle carni. Anch'io ho pensato sempre che fosse. E invece vero. No. No, invece no, vero? Invece tant'è no. Che noi abbiamo detto per anni, dice, vabbè, te credo, mortacci quello tua, col padre . Che c'ha, no, quella ricca. Ma scusa, Cremonini delle carni non è più di zone nostre, mi ricordo male. È bolognese pure lui? No, mi sa che. Allora parliamo della leggenda metropolitana secondo cui Piero Pelù avrebbe cantato la sigla di G. Quella è famosissima. Sì, è vero, è vero. Non importa che all'epoca avrebbe avuto circa 14 anni, insomma. Vabbè, quello potrebbe significare poco, voglio dire. Però, ho capito, diciamo c'aveva un vocione che... magari a 14 anni avrebbero fatto qualche esorcismo, credo. Piero Pelù aveva già i peli a 14 anni, perché era Pelù. Era Pelù, esatto. Oh, dice lobby frontali: certo che i videogiochi possono causare attacchi epilettici. Dice, ma chi è epilettico c'è già, e siamo d'accordo. Ma se uno in realtà non ha mai avuto la diagnosi, perché è e lo scopri, esatto, e lo scopri, ragazzi. Esatto, lo scopri in quel non modo. C'è modo più divertente che scoprire di essere epilettico giocando a un videogioco. Pensa se lo scopri mentre stai andando in giro per i cazzi tuoi, ma invece no, è sicuro. Giochi a casa, ti prende attacco epilettico, ma stai a casa tranquillo, non succede niente. Che vuoi che sia? Ma sì, meglio lì che piuttosto che perché sono per strada, al parco, per strada o mentre stai a guidare. Allora, al parco, dai. Se mentre gli attacchi epilettici metti un cappellino, puoi segarsi qualche soldo, però perché prendo, fa spettacolo. Sì. Oppure se sei, che ne so, oh, guarda, sta sbagliando. Sei turettico. Epiturettico. Quello è un'altra cosa. Epiturettico, perché mentre ti contorci bestemmi, com'è? I capelli, com'è che erano? I capelli down. I capelli down, dicevano. Oddio, belli down. Io ho visto. No, poverina, dai, cazzo. No, no, ovviamente no, con tutto il rispetto per chi, scherzi a parte, purtroppo soffre di queste che sono patologie veramente serie. Cioè, parliamo continuamente dei 5 Stelle, quindi figuriamoci. Esatto, cioè, rispettiamo chi è malato, che è malato. Esatto, cioè, malgrado tutto li rispettiamo. Esatto. Quindi Simone Cusella, qual è la leggenda metropolitana che tu hai pensato per un attimo, per un periodo di tempo, o anche per così, cioè, così balenato, quale potesse essere era? All'inizio, nel senso proprio all'inizio della storia, una figa, non esiste. Non l'ha mai vista nessuno in realtà. Metto la musica sexy sotto. Facciamo la figa. No, è una storia che riguarda. È una storia che riguarda noi, riguarda altri uomini. Un esperimento eseguito in Russia. Vabbè, dai, però. Eseguito in Russia su delle persone a cui veniva forzatamente privato il sonno. Ovviamente ci hanno fatto i telefilm su ste cose. No, ma c'era tutta sta storia uscita tanto qualche anno fa, 5 anni fa, qualcosa del genere. E iniziava tutto sommato in un modo anche abbastanza credibile, no? Di queste persone che diventavano anche un po' matte, diventavano stressate. Strano. Cioè avevano proprio questa rabbia dentro, questo stress. Beh no, pure io sarebbe tutto a posto, insomma. Solo che poi questa storia, vabbè, probabilmente si smentiva da sola. A me era del culo, già se dormo 7 ore e non 8, quindi figurati. Cioè praticamente questi qui alla fine si strappavano la pelle dalle ossa, tipo mangiavano le proprie feci nella stanza. Vabbè, quello lo faceva pure Frank Zappa, dai. Sì, certo. E vabbè, comunque questa è. Boh, vabbè, però ti ripeto, guarda che la privazione del sonno porta a stati veramente di allucinazione. Sì. Ma infatti perversa. Infatti, all'inizio di questa storia ci stavo credendo su questo esperimento, però cioè poi è arrivato ovviamente a un livello assurdo di queste. Eppure ti dirò che secondo me, soprattutto diciamo in certi periodi storici un po' diversi da oggi, di esperimenti di questo tipo ne saranno stati fatti a iosa, ecco. Io non la darei proprio come leggenda metropolitana. Guarda già nei campi che cosa combinavano. I campi di grano. Campi di grano, sì. I cerchi? Nei campi, sì, cioè. Ma di che parli? Quali campi? Di che stai parlando? Dottor Josef Mengel, l'eugenetica. Ah sì, beh certo, giusto. Vabbè, volevo evitare di scendere nell'argomento. E perché? No. Non è che no, ma dopo facciamo come Felt che dice, questi cazzi della Shrag, come ci fa così. Sì. Beh, ma d'altronde c'è qualcuno che dice che i campi di concentramento sono la leggenda metropolitana. Ah, cioè, ma certo, sicuramente. Beh, ma sai che io sono andato in Germania qualche anno fa con i miei e ho visto il campo di Dachau. Cioè tu sai che veramente eravamo a 100 metri, veramente dietro la curva, solo che il navigatore non ci dava la strada giusta. E abbiamo chiesto per strada a nessuno che sapeva dove fosse. Era lì a 100 metri. Beh, da allora. Era lì a 100 metri. Non è mai esistito. Non lo sanno bene, non ti preoccupare. È dentro i loro cuori, diciamoci, ecco. Ma io penso che mo al di là di tutto adesso c'è un po' questo neofascismo, neonazismo imperante, però per una persona normale cresciuta con quelli che sono i valori della democrazia, secondo me deve essere un peso grosso portarsi dietro comunque il fatto che tu sei stato quello che ha portato il nazismo in Europa. Deve essere facile, insomma. Va bene, detto questo, invece altre leggende metropolitane, io mi ricordo che c'era per esempio una volta fecero sentire sta registrazione voci distorte, straziate, strazianti, che si sentivano un po' a malapena e che praticamente venivano identificate come una registrazione delle voci dell'inferno, perché finalmente c'era sto tizio che praticamente sto scienziato russo che in Siberia facendo praticamente tutti questi scienziati in Russia, porca miseria, mamma mia, altissima concentrazione, esatto. Sì, e che questo praticamente aveva forato il terreno per 14 chilometri perché praticamente quel lavoro che stavano cercando di fare a mani nude, ricordiamolo, certo, è chiaro, con i denti anche, con le penne bic. Quello che volevano fare era praticamente registrare i rumori del movimento del terreno praticamente da sottoterra, insomma. E dice che praticamente sta sonda che scavava a un certo punto è arrivata in quello che secondo i sensori era una enorme caverna gigantesca che praticamente insomma aveva una temperatura di 15.000 gradi Fahrenheit, e quindi una cosa caldissima. E questi che hanno fatto? Ci hanno messo un microfono dentro che non si è sciolto ovviamente. Esatto. Ma non credo fino in fondo, però. Ah, vabbè. Non credo fino in confondo, però sì, in effetti è la stessa cosa che ho pensato io. E quello che hanno registrato era praticamente sti suoni, ste cose. Ed è lo scienziato praticamente. Ma no, inferno, il bello è che in realtà la registrazione di fatto esiste. Cioè, se tu la senti, un po' ti inquieta, cioè nel senso. Però poi quella che fu stata la chiaramente questo ha detto: oh, ho fatto sta registrazione, mo cavalchiamo un po' l'onda, ci faccio un po' il figo, ci divento famoso. Però aspetta, ma un microfono che registra ad alte temperature può anche essere. In fondo mettono le telecamere nei forni a 1000 gradi. No, vabbè, ma adesso non. Cioè, comunque stiamo parlando. Adesso magari sì. Beh, ma non è, non so quanto tempo, sarà stato una ventina d'anni fa, una trentina d'anni fa al massimo. Comunque, boh, al di là di tutto, quello che questo aveva registrato chiaramente erano delle distorsioni, dei vari riverberi di ogni genere che provenivano ovviamente da tra tutti i movimenti d'aria che ci potevano essere, un bel genere. Però quello che veniva fuori era veramente sti suoni un po' inquietanti, no? E questi suoni un po' inquietanti, alla fine questo se l'è spacciati come il fatto che, avendo scavato talmente tanto in profondità, era riuscito a scavare fino a quelle che potevano sembrare praticamente le basi dell'inferno, praticamente. Le anime, esatto. Quindi è meglio mortacci su. E quindi erano praticamente le urla strazianti delle anime che soffrivano già all'inferno. Queste sono le anime che urlavano scotta. E questa cosa fu spacciata per questo. Quindi pure i vari notiziari avevano riportato, non so se i notiziari, però mi ricordo che ne parlarono in televisione anche in una trasmissione che seguivo, che sembrava interessante. Ma io guarda, i notiziari riportano, ma anche oggi si vede tante cazzate, oggi con più leggerezza. Una volta invece le riportavano con la serietà di quello che si presupponeva essere comunque un mezzo pubblico. Quindi la Rai riportava notizie come scoperta la memoria dell'acqua, cioè proprio la base dell'omeopatia, ragazzi, no? Salvo poi dopo 3-4 giorni dire no, era una cazzata. Cioè, beh, no, abbiamo detto quella cosa, ma era una balla, era altri. Oppure, attenzione, questo me lo ricordo, di fondo, questo me la ricordo bellissimo, scoperto il doppio nucleo delle cellule. Questa era l'estate, abbiamo scoperto, gli scienziati hanno scoperto che le cellule non hanno un solo nucleo, ne hanno ben due. Dopo 10 bicchieri di vodka, esatto, di doppio, dopo invece 10 bicchieri di acqua al telegiornale, no, anche questa è una cazzata. Ma in merito a leggende metropolitane, Walter, c'è stato Lobby che ha scritto. Sì, no, ci ho provato a leggerla, però è troppo tecnica. Però ci riprovo. Lui dice: la leggenda metropolitana da detti ai lavori, un po' in tutte le facoltà di psicologia, gira la voce che durante un esame di psicodinamica, quindi roba alla Freud, alla domanda quali sono le tre istanze intrapsichiche per Freud, uno studente o una studentessa abbia risposto io, S e super meno 10. Risposta esatta sarebbe stata io, S e super io, però non credo aver capito la... Perché meno 10 super trattino meno 10 io 10. Io continuo a non averla capita. Dice sì, Lobby. Super perché è scritto super io, e quello ha capito super meno 10. Ah, oddio santo. Alla Gusella, cioè Gusella potrebbe studiare psicologia, ok. Poi ci dice sempre, sempre Lobby che dalle sue parti tra i vecchietti girava voce, praticamente in ogni paesetto, che Tizio, che era nato il 25 dicembre, la notte di Natale non usciva di casa perché si trasformava in un uomo lupo. Beh sì, ma questa cosa dell'uomo lupo ne ho sentite tante pure io quando ero ragazzino. Ce n'era una sull'universitaria, cioè, però non ho mai capito se era una barzelletta o se era una leggenda. Complimenti urbana. Al suo quella? Complimenti al suo ragazzo, ma non è così? No, c'entra un ragazzo. Questa è la domanda, dice il professore, fece a questa ragazza. No, il professore parlava dello sperma, praticamente. No, allora è diverso. Vai, racconta. Diceva borra. Che praticamente la maggior parte è composta da glucosio, comunque da zuccheri, perché serve per dargli lo sprint. E questa universitaria se ne esce con: ma allora perché è amaro? No, brava. Aspetta, non è finita. Questa qui praticamente diventa rossa paonazza, come questa luce che adesso stiamo mettendo, così come la casa di Michele Salvezza, la stanza di Michele Salvezza dopo il rilascio, esatto. E mentre corre via, il professore la ferma e dice: beh, il senso del dolce è sulla punta della lingua. per cui puoi sentire proprio... solo amaro. E poi tra l'altro è stata smentita ultimamente questa cosa, che è una cazzata. Beh, io ne ho sentita un'altra di questa professore che fa la domanda alla studentessa dicendo quale fosse tipo esame di anatomia, quale fosse l'organo che si poteva dilatare tipo di più di 20 volte. Adesso non mi ricordo la grande... quello della chiesa. E no. Qual è l'organo? E lei rispose il pene. E insomma il professore rispose: complimenti al suo ragazzo, ma no, è l'iride. Esatto. E vabbè, insomma. E c'era invece quella famosa storia molto romantica, molto bella, molto accurata, perché era praticamente questo ragazzo stra-innamorato della sua fidanzata che va da un insomma da un laboratorio di pasticceria, di dolciumi, e si fa fare praticamente l'anello, si fa fare l'uovo di Pasqua, però ci fa mettere questo meraviglioso anello di brillanti, che insomma, tenero. Che bravo. Bellissimo, che amore. Di finanziamento, quando lui consegna l'anello di finanziamento, anche quando lui consegna l'uovo alla ragazza, che poi sto mettendo al posto, no? La ragazza vede che l'uovo era di cioccolato fondente e va praticamente al posto dove è stato preso e se lo fa cambiare con una al latte, perché praticamente a lei la cioccolata fondente non piaceva. Quando lui ha saputo questa cosa, ha cercato di fare del tutto per farsi ridare il suo uovo, perché ovviamente dentro c'era questo anello di brillanti, e di questo anello di brillanti non si è più saputo niente, quindi non si è poi... E neanche della ragazza, esatto, è sparito nel nulla. Cioè, penso che... E questa sì, insomma, sono quelle notizie che quando tu le leggevi sul giornale dicevi, però ammazza, che storia, roba, e tutti raccontavano, ammazza, perché poi insomma, sai, c'è sempre quello nella combriccola che te le sa raccontare, dice, ammazza, che insomma. A questo punto, Simone, io sono pronto per la pausa musicale, quindi ho la musica giusta dopo tutta questo racconto, quindi quando sei pronto io direi che andiamo. Vai con la musica. Mortificati, Runtime Radio. Vi do anche un annuncio, mentre che qui dalla seconda regia ci sfumano la bellissima canzone di Elio e le storie tese, che brutalmente anche parlava insomma di a mio cugino, che era quello delle leggende metropolitane, in cui è successo di tutto, insomma, perché chi di noi non ha conosciuto un cugino, che ne so, quello Benvenuti nel Lights, no? Quella famosa leggenda. Esatto, esatto. Era insomma, la segretaria del 1997, che la ci credeva, che riuscì a raccontarmi la storia di quello che ebbe l'incidente con la moto, si tolse il casco e si aperta la capoccia. Sì, ti grande, giuro, grande, io ho riso per ore. Grande, perché secondo me la gente un po' ci ha creduto, insomma. Comunque, prima un annuncio, ragazzi, che sta per tornare un podcast storico. Attenzione, vi do questo annuncio così, ma non vi torna dietrologia videoludica, che bello. Ci mancava tanto. No, non quello, perché già c'è troppa roba musica. Anche archeologia videoludica, che bello, storico, veramente storico. Poi se Lobby ci sta ancora ascoltando, torna l'occhio del Beholder. Magari. Se Lobby ci sta ancora ascoltando, io quello che volevo sapere, ma è vero che a volte quando si fanno delle sedute di psicanalisi con regressione ipnotica, roba del genere, sempre che abbia un minimo di valore scientifico, alcune persone cominciano a parlare in lingue mai sentite o conosciute, o è questo rientra nella categoria delle leggende metropolitane? Faccelo sapere, Lobby. Nel frattempo Lobby ci fa una richiesta. ci interesserebbe tanto. Che ci richiede? Ci dice, ma di Renzi Senior non ne volete parlare? Ma guarda, ma in realtà sai qual è il problema? Per par condicio dovremmo farlo. Il problema è che, allora, io sono dell'idea che sicuramente c'è un serissimo fondo di verità, perché è oggetto di indagini. Sicuramente, o molto probabilmente, le accuse su cui, diciamo, si è basata il provvedimento cautelare saranno fondate, e molto probabilmente poi la giustizia farà il suo corso. Il problema è un problema di diversi pesi e diverse misure, cioè è stata poi strumentalizzata questa notizia nel momento in cui sostanzialmente si doveva distrarre l'attenzione da cose secondo me molto più gravi, soprattutto perché di fatto ad oggi a me, lo sapete tutti, Matteo Renzi non sta simpatico per usare un eufemismo, però in questo momento diciamo che le indagini che riguardano il padre e la madre non lo coinvolgono direttamente, perché quindi è un'anima troia per lui. Penso che insomma rimarrai questa cosa ti turberai i tuoi sonni. C'è un Arus in studio. Guarda, sono arrivati Birubiru. Sì, i birubiri. Sono arrivati. Mettiamo la canzone di Renzi, dedicata a Renzi, di Bello Figo. Che bellissimo. Non ci abbassiamo a questo. No, io invece a proposito volevo lanciare un momento di tristezza. Ah sì sì, perché poi c'è nella nostra tradizione, c'è anche un momento in cui bisogna fare dei coccodrilli, riflettere un po' sulla, scusate, ho sbagliato tutto, fermi tutti, sto facendo un casino. Beh, gente ne è morta comunque. E poi ecco qua, aspettate un secondo solo. E direi che siamo qui riuniti per dare l'estremo saluto all'opera televisiva più importante del XXI secolo, forse anche del XX e del XXI messi insieme, e anche di quello che deve venire dopo, insomma, di più anche del XXI secolo, insomma l'insieme, perché ci ha prematuramente lasciato senza motivi, senza spiegazioni, senza neanche sintomi precedenti Adrian. Beh, oddio, i sintomi ci stavano. Però effettivamente pare che, insomma, si sospetta che Mediaset abbia colto l'occasione del fatto che hanno rimandato la trasmissione della seconda parte degli episodi di Adrian per un paio di settimane, per nasconderla sotto al tappeto e farla perdere nell'oblio della Sperando che nel frattempo Celentano morisse. Cioè, ma infatti, secondo me, la cosa triste di questa situazione non è il fatto che il programma abbia fallito, e lo sapevamo tutti, e vabbè, gli è costato tanto, e vabbè, ci hanno provato, tutto quello che vi pare. Un programma può anche fallire, cioè ci può stare che uno crede in una produzione, poi dopo viene a fare una cagata. E la cosa triste è che un network televisivo nazionale usa la tattica del famo finta del cazzo, che è un po'... Ha funzionato con Chuck Cunningham. Ma lì erano altri funziona tempi. Funziona anche in questo caso. Il discorso può funzionare, è che sempre ci hanno talmente, come posso dire, massacrato i coglioni. Funziona, esatto. Col Napoli lavali col fuoco. Ah, ecco. Funziona, ragazzi. Sì, funziona. Vero, hai ragione, è vero. Fatto sta che di oggi l'intervista a Michelle Hunziker, che sostanzialmente è stata interpretata, credo, dal Corriere della Sera, perché, per chi non lo sapesse, la Hunziker avrebbe, insieme ad altri, credo Teo Teocoli ed altri, e altre star nazionali, avrebbe dovuto partecipare alle dirette che accompagnavano, che anticipavano ogni puntata del cartone animato. Solo che a tipo 2 giorni dalla messa in onda della prima puntata si sono proprio stufati e se ne sono andati, perché a quanto pare andavano in teatro a fare le prove di questo show e Celentano, che era il regista dello show, non si presentava. Quindi non sapevano cosa dovevano dire, non sapevano cosa dovevano fare, perché a un certo punto hanno detto: sapete che c'è? Bella Secchi, noi ce ne andiamo. E quindi sostanzialmente poi hanno dovuto reinventarsi il format dello show su due piedi, hanno ingaggiato altri personaggi e va bene. Ma poi la cosa bella è che Michelle Hunziker, che alcuni di voi sapranno, è molto attiva in tutto quello che è, diciamo, la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, interpellata su alcune scene ridicole di Adrian, perché ricordiamoci c'è questa scena in cui Adrian salva due ragazze vestite in modo tra virgolette provocante da un tentativo di stupro e poi le stupra lei. No, lui fa la morale dicendo: se aveste esatto. bevuto un po' meno, se foste vestite un po' di più, probabilmente non sarebbe successo. Cosa che ovviamente, dal punto di vista della Hunziker, ci sentiamo di darle ragione, è agghiacciante. Perché vabbè, quel cartone, l'abbiamo detto, è se non fosse state nude, una sequela di luoghi comuni per dire che il progresso è il male. Cioè, sostanzialmente, l'unico... Beh, ma Adriano Celentano queste cose l'ha sempre sostenute. Sì, ma questa cosa, insomma, poi l'esaltazione di se stesso, per dire che lui è il bene e tutto il resto è il male, sostanzialmente. Lui è la perfezione. Comunque c'è un altro lutto, ragazzi, è morto Lagerfeld. Okay. È morto un guru della, della moda. Karl Lagerfeld. Cioè, ne danno il triste annuncio gli occhiali da sole, i colletti alti e i guanti anche l'estate, ragazzi. Cioè, non lo so, però so che Simone Cusella lo conosceva. Sì, Lagerfeld che lavorava nei campi della moda. Esatto, sì, mio. Basta, ragazzi. Mamma mia, che tristezza. No, no, davvero. Cioè, no, Lagerfeld lo conosce, cioè, di nome lui era, lo stilista capo di Maison Chanel, di anche di ultimamente anche dell'altro marchio italiano, sì, di Discovery Chanel. Discovery Chanel. Oddio, porca madosca. Qualcuno lo prenda per cortesia e lo porti. Allora, c'è via. Un rischio, c'è il rischio che dopo parte la terza bestemmia della storia del rent-a-me. Posso dire una cosa? Ma a catena. Se volete fare, non so, degli esperimenti di privazione del sonno, di privazione dell'ossigeno, ve lo mandiamo. Ci basta che riuscite a fargli fare la privazione delle battute. Già, esatto, questo sarebbe un grande. La camera iperbarica. La camera iperbarica. Comunque, la domanda a Lobby Frontali: se la, sulla regressione. Lobby, no. Ma con delle sedute di regressione ipnotica possiamo tornare al trauma che ha spinto Cusella a dire tutte queste battute? Teste cazzate. Oppure farlo parlare in un'altra lingua, così almeno non lo capiamo. Parla bene. Parli napoletano. Oppure e se no, comincia a parlare in una lingua che fa alla peggio Lobby, prescrivici un prozacchino, qualcosa, gli diamo un Ritalin, qualcosa, insomma. attenzione c'è una risposta, allora, sì, c'è ci dice, le regressioni ipnotiche, sì, prendete pure il borbardino, ci ha messo 20 minuti a scrivere le regressioni ipnotiche che diversi psicoanalisti usavano fino a una ventina d'anni fa erano dei catalizzatori potentissimi di suggestionabilità. Dei soggetti particolarmente suscettibili finivano col credere di essere pluristuprati dalla famiglia in riti satanici. In pratica spesso emergevano dei traumi molto probabilmente mai avvenuti. Quindi fondamentalmente erano le minchiate. Ok, ma questo non risponde però a quello che ho chiesto io. Cioè, se era la leggenda metropolitana, il fatto motopolitana, il fatto che sta gente cominciasse a parlare lingue che non conosceva, insomma. Questo è un po'. Questo è importante. Cioè, vediamo, appena dovesse arrivare una risposta, ve lo dico. In realtà siamo tutti collegati. Aspetta, facciamo una prova. Gusella, potresti dire meglio un culo caldo in panza una panza calda in culo? Non ci sono riuscito manco io. Vai, provaci. Ma lui va in loop, l'ho detto, ma non mi funzionava il microfono in quel momento. Dai, provaci. No, ma gli si bloccava. C'è bisogno che tu lo capisca. Cioè, lui lo sa. Basta ripeterlo. La cosa che sono troppe parole, non riesco. La cosa che apprezzo di Simone in questo caso è che lui sa di non riuscire a dirlo e quindi non lo dice. Dai. Meglio. Non se lo ricorda. Meglio un culo caldo. No. Meglio un culo caldo in panza, una panza calda in culo. Sì, anche perché non è necessario l'uno prima dell'altro, nel senso. Vedi, sta parlando una lingua sconosciuta, quindi succede, si può fare. Si dice sono cazzate. Cosa è successo a me quella notte del 26 dicembre? È stato stuprato da suo zio. E ho cominciato a dire sta roba dei traumi che riemergono mi ha fatto venire in mente un'incnosa gelata. Così. Cosa? Shutter Island. Bellissimo film, peraltro, Shutter Island. Oh, vogliamo parlare un momentino di cinema e affini? Qual è? Quello con Leonardo DiCaprio che va sull'isola L'isola dei matti. Sull'isola dei matti e un investigatore negli anni 50, solo poi che c'è tutto il bel la trama che poi esatto, che non possiamo dire. Ma meglio di no, perché comunque è un film molto molto molto bello. Allora, dicevo, parlando invece di cinema, spettacolo, eccetera, prima di parlare di quell'argomento lì, vi volevo raccontare che ho visto Alita. Alita. Ma dai. E cosa ne pensa? Cosa ne ha pensato? Ma ne ho pensato che mi aspettavo diciamo dalle immagini del trailer. Aspettavi di peggio. No, da un punto di vista tecnico ha fatto molto bene, perché ovviamente dietro ci sono James Cameron, un budget James elevato. James Cameron. Costa d'avorio. Esatto, sì, James Cameron. Vim the ghost del boghino. Esatto. Ma perché? Perché questo becero di ironia sul parlare da negro? Questa è cosa molto cattiva. Molto cattiva. Questo film costa un po' di più. Un po' di più. Insomma, tecnicamente ineccepibile. Poi invece a livello di vicinanza all'opera originale, quindi al fumetto di Akira Kishiro, diciamo che prende, si prende molte libertà. Perché molte quella libertà è la parte trattata da Frank, da Frank Kenia, quello non è la parte. Esatto. Di oggi ho letto uno che diceva: ah, ho visto Alita e Alita, Alita. Alita. E bello, molto fedele al manga. Bene, quindi c'è molta. Lo deve aver letto con attenzione al manga. Contrario, o al contrario, però dicendo, guardando solo le figure. Tra l'altro, normalmente manga, si leggono al contrario. Se lui avrà letto per dritto, infatti, quello al contrario, è il problema. Nel senso, per noi è un libro normale. Esatto. Vedi, c'era la battuta nella battuta. Ricordiamoci che Alita si chiama Alita soltanto perché quando l'hanno tradotto hanno detto: no, Gundam per gli americani è troppo difficile, allora Alita. E allora va bene. Che vi devo dire, però insomma sì, no, dico, se lo volete vedere sicuramente sarà un bello spettacolo, perché da un punto di vista visivo è veramente fatto bene. C'è una cosa che ha scritto Lobby che non leggeremo perché chiaramente la capiamo fra noi, però sappi che va bene. Ti condividiamo e hai la nostra solidarietà, quindi va bene. Alita, quindi insomma, vabbè, quindi tecnicamente è fatto bene, molto, non c'entra un cazzo col fumetto. Allora, no, c'entra, però potrebbe accostarsi, allora, di più, insomma. Diciamo che si poteva, per assurdo. Però aspetta, ti faccio la domanda, aspetta, che questa è la domanda che volevo farti. Se uno il fumetto non sa un cazzo, sì, com'è come film? No, si diverte, è gradevole. Questo volevo sapere, insomma. E se uno non ha letto il manga e non guarda il film, è ancora più bello. Soprattutto quello è meglio, perché risparmi in tutti i sensi. Cioè. Però vedi che Walter non ti ha risposto perché è rimasto basito dalla stupidità di questa domanda. Sì, stupidità. A sto punto, ragazzi, è arrivato il momento. Abbiamo quell'ultimo quarto d'ora. Dai, metti quella sigla lì. Dai, che questa è la cosa che fa sempre piacere alle persone di Simone Cusella. Sì. Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Discovery. Discovery. I trip. Perché l'Enterprise si è sfasciata per un cazzo di televisore. Che non si sa di chi è la colpa, però comunque mezza Enterprise adesso se la comanda sulla Discovery. E Discovery prosegue essendo arrivato praticamente al penultimo episodio prima della mid-season break. E questo è... C'è? No, non c'è. Beh, la mid-season break, è iniziato direttamente dopo il break. È iniziato direttamente a febbraio. L'altro anno c'è stato il break. Ma perché è iniziato a settembre, hanno interrotto a dicembre e ripreso a fine gennaio. A settembre? Caro. Ok, allora non c'è sta la mid-season break. No, non c'è. Porca puttana, questa cosa è meglio. Vabbè, comunque siamo arrivati al quinto episodio. Il quinto episodio che continua questo avvicinamento, insomma, questo ammiccamento, questo flirtare verso il trekking. Verso l'infinito. Sì, siamo sempre più, diciamo, tornati nei canoni di quella che è la struttura narrativa di una serie Star Trek. Canon che, ricordiamo, ha lanciato 3 nuove mirrorless. Esatto. Ma ci pagano? No, infatti non abbiamo detto quali o se sono belle, abbiamo detto solo che le ha lanciate. Ora, quelli che in radio ci ascoltano, ma sono dei fan del Danicon, non ci seguiranno più. Esatto, oppure Sony, perché oramai Sony comanda in maniera indiscussa il mondo delle mirrorless, quindi. Dicevamo, insomma, l'episodio è piaciuto. Anche lì, con queste, io non trovo di particolare funzionalità questi dialoghi all'inizio che servono a giustificare gli anacronismi tecnologici, però tolto quello, insomma, un episodio divertente, direi, no? Sì, devo dire che ci è piaciuto. Anche, tra l'altro, l'inizio dell'episodio ti lascia un po' presumere un qualcosa che poi in realtà non è, e molto, cioè, 33 l'età non è. Avete presente quegli episodi che iniziano e finiscono con una sorta di sovraconcetto che racchiude un po' tutta la puntata, con quegli slanci emotivi un po', insomma, la, ma ecco, c'è uno sto, non ho capito, cazzo, non ho capito, la super cazzo, cioè, avete presente alcune super cazzola, alcune puntate di Lost dove poi finivano che c'era questa parte emozionale, no, fatta in una certa maniera, quasi tutte praticamente, con la, beh, no, non tutte, però alcune puntate andavano sul consolatorio, diciamo così, no? Prima te menavano, cioè, oggi non te la sei scopata, ma forse domani sì, esatto. Andavano nel consultorio, e insomma niente, questo è un episodio che ci è piaciuto, devo dire, ci è piaciuto. Ma poi questi continui riferimenti a quella che poi sarà la prossima serie, come dire, spin-off, esatto, quella sulla sezione, esatto, 31, che sta cominciando a farmi venire, perché finalmente vediamo un lato poco etico, un lato poco, come dire, politically correct della federazione. A me mi comincia a piacere sto fatto. Sì, diciamo così che, allora, come ritorniamo al fatto che l'odiatissimo Kurtzman ha riadato una drizzata un po' la questione, sta dando profondità ai personaggi che, come abbiamo detto prima, ci manca sempre Arian, ma comunque sì, un attimo, però un po' tutto, ci manca pure, sì, quella Arian, testa di ferro lì, e praticamente sta ridando, ecco appunto, insomma, diciamo una sorta di riaddrizzata. Però questo abuso, diciamo, della sezione 31, diciamo, sì, è bello da una parte, come dice Walter, e condivido, dall'altra stanno sempre a parlare di una cosa che 50 anni dopo non la conosceva nessuno, cioè, insomma, magari, perché il loro lavoro non essere conosciuti. Ho capito, ma lì la conoscevano tutti. Quello tira fuori lo stemma e fa: ah, sezione 31, porco cane, la sezione 31, però magari da Juve, la stessa cosa, cioè, se tu non sai che cosa succederà alla fine delle stagioni, magari spariscono, no, ufficialmente, magari ne fanno talmente tante, talmente zozze, che decidono che non bisogna più parlarne, che ne so, forse è il caso di levarli dal cazzo, chiudiamo la sezione 31 e poi, però, e poi esatto, no, l'hanno chiusa. No, chiusa. Queste sono le chiavi, chiusa del e nacque il direttorio 32, perché di solito si fa così, cioè, no, il chiudere vuol dire cambiare nome. Come si chiamava il KGB prima di chiamarsi KGB? Bebe che? Perché? No, non so. Si chiamava ABC probabilmente. Bebe che? Vabbè, comunque, dai, c'è poco da dire su questo episodio. So che invece ci interessa molto il prossimo episodio. No, io sto dicendo che so che il comunicatore digitale, quello l'ha un po', quello m'ha un po' destabilizzato. Allora, a Walter gli danno fastidio i cosi olografici, cioè, nel senso, il giustifica il fatto che non ci stanno più i cosi olografici. A me invece mi dà fastidio il fatto che, poi mi dà fastidio relativamente, perché a me non è che dà fastidio che lo giustificano, è il mezzo, cioè questi dialoghi inutili. Lo so, vabbè. Questo però, mi dà un po'... A me quello che a un certo punto vedo uno che usa un comunicatore che tu sai che verrà messo in uso 80 anni dopo, cioè. No, 80 anni dopo sappiamo che è già in uso, esatto, non sì, che vabbè, viene messo, no, in uso. Sappiamo quanto tempo prima di Next Generation, infatti, viene usato. Può darsi pure che è morto Kirk e sono arrivati, cioè, morto ufficialmente con Generation, e poi l'anno dopo sono usciti questi comunicatori, quindi in realtà non sappiamo. Ripeto, è comunque una cosa forzata, delle tecnologie in anteprima, sì, però è un vezzo citatorio un po' eccessivo, allora, cioè. Diciamo che sì, questo è, diciamo, inutile, anche perché se allora avessero i phaser raggio della morte, a parte l'avrebbero dovuti usare nella guerra, ma se avessero una tecnologia così potente magari se la tengono nascosto. Ma un comunicatore piccolo fondamentalmente non è tutto sto gran vantaggio che poi dice che dopo 20 anni, capito, ancora, cioè, non lo usi, cioè, capito, cioè, è un po' un vizio inutile, sì. Un po' un vizio inutile, però vabbè, dai, avrei capito magari un comunicatore da polso, per dire, attaccato alla maglietta, che poi magari hanno abbandonato, per dire, ci poteva stare una tecnologia diversa di mezzo che poi magari viene abbandonata, però Noi dobbiamo sempre ricordare che, per quanto, voglio dire, ci sta che la sezione 31 ci possa avere le tecnologie più avanzate rispetto agli altri, perché comunque usano magari cose sperimentali. Noi dobbiamo ricordare che su Star Trek la cosa importante è che il teletrasporto è fortemente legato al sistema di comunicazione, quindi di solito quando viene tracciato una persona che deve essere teletrasportata, si usa il comunicatore. Se c'è già a disposizione un comunicatore come quello, che basta avercelo appiccicato alla maglietta, voglio dire, avrebbe salvato probabilmente tante capre e cavoli, insomma, sì, in certe situazioni. Tappetutine rosse avrebbe salvato. Esatto, no? Quindi insomma, diciamo che quella è un po' una stronzata. Però detto questo, ci sta l'occultamento, ci sta tutto, perché comunque, come diciamo, non è che la federazione non ha la tecnologia per fare determinate cose, è che per convenzioni, per accordi, per leggi e anche per scelta morale, comunque la federazione non usa determinate forme di armi che non sono considerate. E sta lì tutto il gioco, il concetto morale in par de cazzi, la sezione 31 de morale gliene frega infatti ben lì poco. Ci sta che loro hanno l'occultamento, cioè diciamo ci può sta, insomma. No, ma quello è il meno, secondo me andranno le spicciole, almeno nella serie nella serie dedicata, nello spin-off, secondo me andranno le spicciole, però vabbè, è presto per dirlo. No, più che altro adesso ci sarà questo scontro tra due visioni. Presto, sono le 10:30. Esatto, ci sarà lo scontro praticamente tra questi due modi di affrontare la cosa, ossia praticamente Pike con la sua morale della flotta stellare e Peler pelato lì con i mezzi spiccioli, ovviamente dalla sezione 31. Liam mi sembra che si chiami, però. E poi bisognerà vedere tutto questo. Poi c'è la Giorgio. Poi c'è la Giorgio che dice che sì, Spock, no, io non ti ammazzo, tranquillo, ti devi fidare di me, tranquillo. Secondo me, sta cosa della Giorgio, secondo me, finisce che lei è diventa capitano è quella originale, secondo me. Non no, so no, perché. No, sono magnata. Cioè, dai. No, potrebbe diventare capitano al posto del pelato, però. Anche perché è ambiente, cioè no, ma la Giorgio diventerà, secondo me, la protagonista della serie. Protagonista. Pure secondo me. Essendo capitano ufficialmente, perché l'hanno reintegrata, neanche se non è il suo il grado, perché lo sanno che non è lei. Potrebbe diventare capitano al posto del pelato. Lo sanno, ma non alcuni si dice. Sanno, la sezione 31. Lo stesso Pike non lo sa. No, la sezione 31 lo sa, ovviamente. Vabbè, certo. Però potrebbe diventare capitano della nave al posto del pelato. Che potrebbe avere uno strano incidente, esatto. Insomma, tipo domestico. Ma d'altronde si usava. Bloccato nel cesso. Sì, vabbè, però poi così nell'impero Terran si usavano queste cose. Ho capito, però poi dopo diventa, diventa la nave romulana. Possono succedere gli incidenti. Sì, però gli incidenti succedono. Non penso che si spingeranno troppo, perché insomma, se no veramente andavo un po'. Comunque avete visto, abbiamo ricostruito l'altro giorno il perché e il per come la timeline Kelvin si è chiusa e non se ne parla più. Anche grazie al cielo. Anche fortunatamente. È successo un sacco di cose, non so, ma dice che il nostro pubblico interessa? No. E allora non lo raccontiamo. No, sì, ci credo proprio. Dice, Gusella, guarda. Walter ha domandato al nostro pubblico interessa, io guardavo Simone e ho detto no, non gli interessa. Perché Simone è il nostro pubblico. Simone, raccontaci tu una cosa prima di andare in chiusura di trasmissione, dai. Vi racconto. No, beh, ho iniziato a vedere Mr. Robot, così siamo in tema TV. Ah, beh, bravo, beh. Su consiglio del buon Marco Gualdi. Ti sta piacendo, non spoilerare molto. No. Sono arrivato alla terza, quarta puntata, credo, della seconda stagione. E bella, veramente bella. Veramente bella, ricca di colpi di scena. Questi misteri. Misteriosi. Perché, vabbè. Poi non ce lo, solo una cosa non ce lo facevi che Freddie Mercury era un agrove? No, infatti. Perché sì, c'è cioè Rami Malek che fa l'hackerone di turno. E bello, veramente bello, perché c'è sto personaggio che, dico solo questo, che è un po' matto. E che quindi si costruisce tutto intorno a sta cosa che... Tra l'altro, ricordiamolo, la cosa molto bella per chi è appassionato di questo tipo di trame, di questo tipo di Linux, di tecnologia, che è Linux. Che tutto quello che succede a livello tecnico nello svolgersi della trama è stato realizzato con la consulenza di tecnici specializzati e tutto quello che vedete si può fare. Potete essere hacker anche voi. È informaticamente non soltanto verosimile, è informaticamente vero e sostenibile. Vabbè, così. Che bello, Pizzi. Hai capito? Mi sono emozionato. Quindi puoi copiare quello che vedi a schermo e hackerare le banche. Okay. E poi oppure... stacca tutto. Va bene, ragazzi. Invece intanto siamo al 62esimo speech della partita Atletico Madrid-Juventus e non mi avete mai sentito nominarla perché non è successo un cazzo di niente. Bene. Chi è com'è andata l'andata? Questa è l'andata. Ah, questa è l'andata. Che bene. Com'è tornato il ritorno? A piedi. Va bene, io direi che Famo una cosa, non c'è nessuno, chiudiamo, staccamo tutto. Infatti, potevamo dire per esempio che io e Sbano abbiamo visto Io. Ma la settimana prossima, però ne parliamo la settimana prossima. Cioè, dobbiamo rovinare un'altra puntata. La voglia, certo. Sì, io ho visto anche Life, sempre su Netflix. No, io non l'ho visto. Invece, la settimana prossima vi racconterò di Titans. Ragazzi, vi ho finito di vederlo. Vi do un'anteprima, non so se vi farà piacere o meno. Night Flyers, la serie di J.R.R. Martin. No, aspetta, non è morta per sci-fi. Non è morta, è che sci-fi non la rinnova. Mo ci pensa Netflix. Speriamo. Non lo so. Avendoci avuto tipo 400.000 ascoltatori nell'ultima puntata, non so. Era talmente 424.000, sì, cioè noi avevamo iniziato a vederla e penso che finiremo, insomma, la... però insomma stava piacendo. Sì, invece, ecco, non sembrava. Dico una cosa che interesserà Simone: quest'autunno quarta e ultima stagione di The Man in the High Castle. No, meno male. Ma io sono d'accordo, non devono durare in tempo. Sì, anche io la penso così. Sì. Perché cioè, non devono durare come The Walking Dead, cioè, dopo si trascinano e perdono l'effetto che diciamo originale. Ma non, la serie The Walking Dead è essa stessa The Walking Dead. Va bene. È un morto che lo so, infatti, ma già per me già dalla quarta stagione potevano chiudere. Io l'ho abbandonata alla terza, devo dire che perché insomma le prime due tre stagioni sono fighe, mi piacciono veramente tante, anche la quarta. Ma dopo un po' comincia a diventare se stessa, cioè io sono stufato quando ho iniziato a ci camperiamo in un posto o no, arriva il cattivo, veniamo il cattivo, i cattivi ci ammazzano e poi noi gli famo un culo così. Poi si e ogni in volta sembra sì, la stessa cosa, sì. Perché non bastava risparmiare sugli attori facendone morire ogni sei puntate, ma hanno risparmiato anche su sceneggiatori. Questa stessa cosa succede anche su Vikings, cioè Vikings le prime due stagioni, poi da lì in poi comincia a diventare, arriva il re che te tradisce e tu ritorni indietro e lo spacchi in quattro, perché lì poi li spaccavano veramente in quattro, cioè nel senso non è che poi arriva quell'altro di cui te fidi e il conte te tradisce e quindi tu devi ritornare indietro, li andano là e spacchi in quattro, insomma vabbè, a fine regà, cioè tutti un po' di fantasia, se no le cose chiudetele perché bene ragazzi, allora salutiamo Simone Cusella. Ciao Simone Cusella, bellissimo. mi hanno scritto in privato, ma perché Simone Cusella non si prepara degli argomenti? No, ma perché lui è un improvvisatore. È veramente brio. È un brillante improvvisatore. E pensate che prima della puntata lo facciamo bere. Pensa, e mangiare soprattutto, è quella la cosa importante. Io secondo me tutto quello che mi dico bisogna tenerlo a digiuno, perché secondo me se mangia non rende. Cioè, secondo me è vero, metti a digiuno gli viene la cattiveria. Esatto, l'istinto animale. Invece dopo che ha mangiato si è soddisfatto, gli viene la biocco e quindi. Ok, allora prossima puntata ci proviamo. Si cena dopo, esatto, bravo. Dopo la puntata si va al pub, come facevamo una volta. Bello, perché no? Per l'occasione cominciamo alle 8:30. Non sarebbe assolutamente esatto. E saluto Walter Sbano. Ciao ragazzi. Sappiate che siete una delusione. Oggi mi avete deluso. Vi siete celati tutti dietro il silenzio. Secondo me è stata colpa della votazione che abbiamo indetto. La gente è scappata per non votare. A proposito, diamo i risultati della votazione. Allora, hanno votato sì, quindi per il no il 50%, e no per il sì il 48%. 48,9%, quindi quasi il 49%. Quindi ha vinto il boh. Esatto, hanno vinto boh. Marco Gualdi. Ciao, ma io non ho votato. Esatto. Che cazzo vuoi? Non lo so, manco io. Voto voleva il 5. Quindi ricordatevi, OGM, Ottimisti Genericamente Mortificati, torna il prossimo mercoledì, sempre qui su Runtime Radio, www.runtime.it, andate su Runtime anch'io e partecipate alle varie campagne di adesione, perché insomma ci fa sempre piacere che ogni tanto ci arrivi qualche sordo. Date una mano se volete, se non volete non fa niente. Insomma, adesso sentiamo bene, vediamo bene, ma possiamo fare altre cose. Possiamo fare di meglio. Esatto. Perché pensate che è fantastico fare la radio riuscendo a sentire non solo noi ma anche gli altri che sono intorno a noi e sentire anche le musiche, i background, le regie, insomma la cosa veramente. Pensate come sarebbe bello avere una jingle machine. Ci stavo pensando, infatti potrebbe essere il prossimo acquisto. Fate donazioni perché avremo anche il prossimo acquisto. Pianista indietro. Il pianista, esatto. Cioè, Bragardi. Vabbè, ragazzi, salutiamo Lobby Frontali, che è l'unico che ci ha dato la buonanotte, anche perché gli altri stanno dormendo da tempo. Sono belli andati tutti quanti. Quindi salutiamo Simone Pizzi, ciao. Lobby Frontali, ricordatevi, andate su YouTube, cercate Videoludica Channel, che è dove stiamo iniziando a fare il martedì e il venerdì escono i nostri gameplay dove commentiamo i giochi e soprattutto ricordatevi che presto tornerà un podcast storico da me, Simone Pizzi. Ma lo diciamo, aspetta, lo diciamo questa cosa che forse faremo. Ah, forse sì, domenica faremo una live, però per chi, allora, tanto vabbè, c'è lo, nessuno, quindi lo diciamo, infatti, chi lo stiamo dicendo? Vabbè, se riusciamo facciamo una... Beh, magari annunciandola con debito anticipo la gente si prepara. Esatto, infatti se decidiamo di farlo... Si chiama marketing, poi fate come prepara. Comunque faremo... Se no, ma noi le marchette ne facciamo. Se avremo voglia, un gameplay in diretta su Twitch e YouTube. Esatto, no, adesso, ma di che gioco? Di vediamo. Lo sappiamo, adesso decidiamo e domani vi diamo comunicazione ufficiale. Vi posso da ascoltatore, vi posso dare un suggerimento per far funzionare ancora meglio? No. Secondo me durante le dirette dovete regalare un codice per un gioco di merda. Giusto, giusto. Sì, è vero. Giusto. È quello che faremo. È quello che sicuramente faremo. Da Simone Pizzi, Walter Sbano, Simone Cusella e Marco Gualdi è tutto. Ci vediamo mercoledì prossimo alle 21. Ciao.